sono? Sono una persona curiosa, semplice ma curiosa, che scopre ogni giorno quello che ama di più fare e che si reinventa ogni giorno. Una persona nata da un percorso totalmente diverso che poi arriva dal design in modo casuale, ma poi le cose non sono mai a caso, quindi forse è questa curiosità che mi ha portato, la voglia sempre di conoscere. Io lavoro in un'agenzia, uno studio grafico, un'agenzia di comunicazione e design grafico e mi occupo della parte commerciale. Ho un percorso che viene da economia e commercio, marketing. E, diciamo, seguo la parte dei clienti, amo molto seguire anche la parte della produzione, poi insomma, quella che è dietro il prodotto, amo in particolar modo le tipografie, la carta, tutto il mondo che c'è, che ruota intorno. La radio è la voce dell'anima. Per me la radio è uno strumento fantastico, è una cosa che ti accompagna sempre. Io amo la radio, sono sempre accompagnata dalla radio costantemente, la mia vita è sempre stata accompagnata dalla radio. Forse una cosa che avrei desiderato, che non sono mai riuscita a fare, è fare un programma radiofonico, perché la bellezza di questo strumento è fantastica, cioè la possibilità di raggiungere ogni dove, in ogni momento, è veramente magica. Sin da bambina sono sempre stata affascinata dalla radio, secondo me è una delle forme espressive di arte fantastica. Secondo me le immagini spesso condizionano più. Cioè uno spesso è più condizionato dall'immagine che dal testo o dal messaggio. La prima immagine che ti propinano alle TV, ai TG, che sia comunque cose comunque forti, impattanti, poi magari se ascolti bene non è neanche tutto quel disastro che tu hai percepito. Però secondo me le parole poi hanno una forza diversa e anche una capacità di penetrare, di arrivare proprio all'anima delle persone. Ognuno ha una parte artistica, magari inespressa o che non conosceva. Forse proprio l'idea della partecipazione, di avere l'opportunità del gruppo, di avere questa occasione, riesce anche a far esprimere delle forme d'arte che fino adesso magari nessuno ci è riuscito. Quindi sicuramente è una strada da perseguire, assolutamente sì. Emanuela Zara, nata a Terni e viva a Terni e lavora a Terni.